Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, sono le 8 e 20 minuti. Ecco, io ti sento. Io ho già fatto i stracomplimenti alla Juve. So, no, quello che è giusto è giusto. Lo so, lo quello che è giusto è giusto. Hanno fatto una splendida partita. Lo so, prima eri lì che dicevi in corridoio purtroppo che vedi vedi vittoriosi alla Coppa. Lì, no, io lo sai che da un po' che dico questa... La smetti! Vabbè, c'è Peter Pescabè che mi sta perseguitando da questa mattina. Non c'è la finisce da dire. O no? La prossima volta che lo metti, guarda, ti vi dai cuffie e ti piglia a pugno. Ovvio, ovvio. Ragazzi, c'è bisogno di un intervento d'emergenza stamattina. È così, c'è poco da fare. Quando la Juventus mette in riga i fatti, le reazioni diventano. C'è un santo che ci salva. C'è un santo, non particolarmente, però insomma oggi è uno dei santi protettori di Barcellona. No, di Verona, San Zeno, quindi grande vescovo del IV secolo. Pensa che era africano. All'epoca in Veneto non guardavano con sospetto, diciamo, gli immigrati nordafricani, ma li facevano vescovi. E del resto anche tanti altri, come c'era Sant'Agostino, venivano erano in realtà appartenenti a famiglie di funzionari imperiali che quindi, come potevano stare ad amministrare la Mauretania, poi tornavano in Italia. Comunque un grande santo, senza dubbio, che è ancora oggi nella cattedrale con le sue reliquie. Ci restano 93 sermoni, era addirittura ricordato nei secoli della letteratura cristiana come il Cicerone cristiano. E quindi, cari veronesi, avete di che festeggiare. Oggi, nel 1175, da piemontese, lasciatemi ricordare che il comune, il libero comune all'epoca di Alessandria, sconfisse il Barbarossa, che dovette, con la coda tra le gambe, abbandonare l'assedio di 5 mesi al libero comune di Alessandria. Alessandria riuscì laddove invece Milano, rasa al suolo, non era riuscita. Ma a proposito, perché dico questo? Perché nel 1984 oggi nasceva ufficialmente quello che a oggi è il partito più antico d'Italia, che cioè la Lega Lombarda. 1984 era Umberto Bossi, l'aveva fondato come movimento 2 anni prima, ma oggi è la data di nascita ufficiale del movimento, che mirava a essere il sindacato del nord. La secessione all'autonomia oggi invece è diventato un partito nazionale e direi patriottico nazionalista, visto il suo fondamento. E del resto i partiti cambiano, la leadership pure. E Bossi ieri era l'unico a votare contro, hai visto, però insomma questo è. Io so che ti convince particolarmente lo sciopero dell'outlet questa domenica di Pasqua, che è stato, no, che è stato confermato, parlato, che anche parlato tu infatti farai, e va bene, no, in che senso, che non vada l'outlet, no, così risparmio sulla, esatto, carta di credito. Lo sciopero da fare, purtroppo dal nostro punto di vista, che ci obbligano a fare, e non andare all'outlet, perché all'outlet, siccome si spende meno, è un delitto che ci possa andare chi lavora tutti i giorni della settimana e quindi sarebbe libero di andarci la domenica, ma invece no, e quindi bisogna che ci fanno spendere di più. Come in realtà, io so che c'è una notizia che ti ha molto colpito, anzi da quando l'ho letta ho detto appena arriva Oscar, ma dai, Giannino, ma devo chiedergli ma un come commentino. Puoi pretendere che non mi colpisca il direttore nel momento in cui tasse, IVA, sì, balzelli, sì, scadenze eccetera, il ieri direttore... la notizia, scusa, era che eravamo quinti al mondo per prelievo fiscale sul lavoro. Quinti al mondo, capisci? Adesso le graduatorie, altro che la Juventus, la Coppa, quinti al mondo, come ci rapinano, cari ascoltatori. E invece lo stesso giorno, il direttore dell'agenzia provinciale di Genova delle entrate è stato arrestato. L'accusa, siamo garantisti, l'accusa, ma era in flagranza di reato. Lui ha detto: mi hanno consegnato uno stipendio in un ristorante i consulenti di un'azienda. Ah! Che posso fare da contribuente se alzo la voce? Dicono perché che sono. Hai un rantolino. Uno... Capisci? Sì. Perché cioè, se perché mi metto a fare... È una risata, ma un po' nervosa. Ecco, molto nervosa. È una risata da contribuente. Perché se di dico Genova. Quello che penso, dicono che sono demagogo, amico dei bisogni. Quindi ci faccio una risata a Sardò. Lo stipendio gli hanno consegnato. Lo stipendio degli altri gli hanno consegnato. No. Certo, perché le tangenti sono fatte così. Comunque, caro direttore, naturalmente da una mela marcia non bisogna mai generalizzare. Garantismo. Ma è naturale che quando le mele marce sono all'interno dello Stato, è lo Stato che perde credibilità e il furto che commette i nostri danni diventa ancora più odioso. Furto. Ladri. Vabbè, insomma, che devi fare? Devo dire che ieri, sai, il governo presentando il DEF non ci ha dato una cifra. Ah, ecco, appunto. Non ci ha dato una cifra. La grande novità è che con Renzi non ti davano i testi delle manovre economiche dei DEF, ma ti davano le slide. Con Gentiloni un nuovo passo avanti. Nei testi, nelle slide. E quindi... Abbiamo vabbè, tutti oggi improvvisato i nostri commenti. Sì, capito, però approvato salvo intese. Non fare la conferenza stampa in cui dici tre numeri e poi per il resto ogni giornale a quel punto parte con le anticipazioni dei testi che ognuno ha, no? Procedere delle bozze. Ma in realtà tutto quello che ho trovato oggi sui giornali non trova riscontro nel fatto che i testi non ce l'abbiamo. Quindi... Che cosa è successo? Sappiamo che comunque a Padoan va reso onore perché di fronte alla richiesta di Renzi alzate il deficit quest'anno, tenetelo al 2,4, dice no e si fa la manovra correttiva e quindi scende come voleva da sempre l'Unione Europea e Renzi non ha voluto sentire per la finanziaria di quest'anno, scende al 2,1. Per l'anno prossimo, idem, mentre Renzi aveva chiesto, queste sono le indiscrezioni, lo abbiamo scritto tutti, di alzarlo all'1,5, invece il presidente, il ministro Padoan giustamente preferisce confermare la cifra ufficiale su cui eravamo impegnati con l'Unione Europea, l'1,2, poi la riserva è, se le cose andranno male, faremo una trattativa per alzarlo all'1,8. La crescita rimane inchiodata perché... Siamo sì, all'1,1% quest'anno e l'1% nei due anni dopo e su questo anche sì, qui Padoan ha detto beh, è l'Europa che ci obbliga a una posizione restrittiva. Poi sul decreto e sui provvedimenti, cari signori, hanno detto niente tasse nuove, sappiamo tutti invece che ci dovrebbero essere aggravi sull'alcol, sui giochi. Sappiamo che con la concessione data all'Unione Europea all'estensione dello split payment nel settore pubblico e fornitori ci sarà ancora più drenaggio della loro liquidità perché questo è lo split payment, quindi loro non le chiameranno più tasse, 1,3 miliardi ma sono più tasse, le spese non le sappiamo se ci sono interventi sulla ma spesa. Un giorno però Oscar tu mi hai detto questa cosa, adesso sì. Ce l'hai spiegato, split payment in realtà è un po' una mezza fregatura, cioè ricordiamo con questo sistema la l'IVA non va al fornitore ma va direttamente all'erario, no? Cioè sì. la fattura diciamo arriva, quindi significa arriva che i fornitori non possono andare in credito d'IVA. No, il credito attivo che poi loro compenserebbero, quindi significa sottrarre liquidità e cassa ai fornitori pubblici della PA. Quindi non solo il fornitore della PA deve continuare ad accettare che la PA ti paga quando vuole, ma ti impedisce anche di andare in credito fiscale sull'IVA. Però insomma è l'IVA, non sono soldi, poi sono soldi che uno deve versare, cioè o trimestrali non maturato il credito d'IVA non li compensi e quindi praticamente paghi di più e hai meno liquidità in cassa. E invece lo Stato lo fa per avere i soldi subito dell'IVA. Lo Stato significa incassare di più e quindi significa aumento delle entrate e poco a fare, uno poi le può tradurre come vuole, però in compenso in questo decreto di cui non abbiamo ancora il testo e di cui vedremo se dovranno stringere l'ace sulle imprese, quindi meno agevolazioni, stringere il patent box, meno agevolazioni. Vediamo se c'è la rottamazione di tutte le liti pendenti per fare più cassa ancora una volta. E soprattutto c'era il grande tesoretto che Renzi aveva annunciato la sera prima porta a porta, nessuno capiva di cosa si trattasse, i famosi 47 miliardi. E un piano di investimenti per comuni, regioni, ferrovie, infrastrutture, però è di qui al 2032. Ecco, non voglio fare altre cose. Comunque, diciamo, i dati non sono ancora appunto ufficiali. Noi però una cosa ufficiale c'è il numero di telefono, lo diamo, 800 24 00 24, se volete chiamarci, non so, secondo voi anche capire le privatizzazioni, dove si dovrebbe andare, di qua o di non là, la linea... Non c'è la concessione di controllo, però c'è piantiamola di accettare che la politica dia un nome diverso alle cose di quello che hanno. C'è anche la questione della tassa, questa sì, messa sulle sigarette e sui giochi, quindi fumo e giochi. È saltata quindi l'accisa sulla benzina, sai che si discuteva? Pare. La tassa sullo zucchero, la tassa sulle bibite zuccherate, sulle bibite gasate. Non possono aumentare le tasse su chi la dà a bere, perché in quello battono tutti. Su chi la dà a bere. Quindi però, però ecco, magari una cosa che è concreta e che si capisce per tutti gli ascoltatori, alla fine si va sempre il vizio, o quello che è considerato il vizio. Il tabacco, fumo, tabacco. E giochi, no, Venere non è tassata, lo sai che Venere non è tassata. No, Venere non è legale, quindi non è legalizzata. È bella questa, bisognerebbe metterla come motto di Venere non è legale. Venere non è legale. Con noi però c'è un collega dell'Unità, Mario Lavia, che vogliamo salutare, lo ringraziamo di essere con noi. Buongiorno Mario. Buongiorno, grazie, grazie a voi. Posso precisare, l'unità.tv che è un sito, non è il giornale di casa. Certo, l'unità.tv. Allora, Lavia, eccoci qui. Intanto la vicenda politica che rimane è quella della Consip. Oggi abbiamo scoperto una cosa su Repubblica, che questo capitano dei carabinieri, che avrebbe, questa è l'accusa, accusato di falso, avrebbe falsificato un'intercettazione che riguarda Tiziano Renzi, pare che abbia fatto la stessa cosa in un altro, o meglio, comunque è incappato in un errore. Questo almeno racconta Repubblica in un caso di un processo nei confronti del sindaco di Ischia, l'allora sindaco di Ischia. Ma è davvero un ribaltone politico per Renzi questo che è successo? Un cavalcare, un qualcosa che potrebbe in qualche modo ritornargli positivamente? Ma dunque io direi questo, direi che più che la questione c'è naturalmente anche un evidente risvolto politico che riguarda Renzi. Però c'è una questione che secondo me riguarda proprio le istituzioni, c'è una cosa che è un po' più grande di Matteo Renzi, perché riguarda lo stato delle istituzioni della democrazia italiana. Non esagero, perché se dico che c'è un'indagine manipolata da un inquirente, e qui non siamo di fronte a un erroretto, a una svista, siamo molto probabilmente di fronte a un dolo, comunque di fronte a una cosa talmente enorme che veramente getta discredito su una procura della Repubblica, che Napoli, è segnatamente la Procura di Napoli, che non a caso è entrata in un clamoroso conflitto con la Procura di Roma, che invece adesso segue l'inchiesta. Quindi c'è un problema istituzionale molto delicato, perché c'è un conflitto fra procure molto importanti, di cui secondo me il ministro Orlando, fra un'iniziativa delle primarie e l'altra, dovrebbe occuparsi, perché lui stesso l'ha giudicata inquietante, però allora se è una vicenda inquietante lui dovrebbe quantomeno mandare gli ispettori a Napoli per vedere come funziona questa procura, e dico di più, secondo me dovrebbe intervenire anche il CSM e forse anche il Parlamento dovrebbe essere informato su una vicenda che sta davvero gettando discredito su un'istituzione così importante. Non credi però, Mario, che ci sia esagerazione a dire cadono tutte le accuse nei confronti di Tiziano Renzi? Giornali per esempio come Il Fatto Quotidiano, giornali come La Verità, che ovviamente hanno da giorni, per i primi hanno un po' cavalcato questa vicenda, raccontano che in realtà cade, diciamo, questo impianto delle intercettazioni, o rischia di cadere, ma ci sono altri indizi che mantengono. Io direi che è molto, molto probabile che perlomeno questa parte dell'inchiesta, cioè quella che riguarda Tiziano Renzi, questa parte dell'inchiesta è molto probabile, direi, ma veramente probabilissimo, che si risolva tutto in una bolla di sapone. Poi c'è l'altra parte, l'altro filone, diciamo, che è quello che invece coinvolge il ministro Lotti. Però anche qui, siccome chi ha condotto le indagini è quello che commette questi errori, per cui in quell'inchiesta che ricordavi, che dice oggi Repubblica, cleaning, cioè un'attività di pulizia, l'ha fatto diventare crimine, allora ci troviamo di fronte a un soggetto che non è in grado di fare le indagini, che se qualcuno, in questo caso il procuratore Woodcock, continua a fargliele fare a questo qui, evidentemente c'è, io non voglio dire c'è un complotto, ma insomma è una cosa che gli assomiglia. Quindi non è che si sgonfia l'affare Consip del tutto, questo è sbagliato, infatti le inchieste vanno avanti, c'è la procura di Roma, che per fortuna è una procura molto seria, quindi vanno avanti, vedremo. Però è chiaro che a questo punto vengono dubbi su tutto, anche sul pizzino con la T, no? Col pizzino recuperato dalla Mondezza, da questo capitano, c'era scritto T puntato, sì, 30.000 euro. Esatto. Vengono i dubbi anche su quello. A questo punto è lecito dubitare di tutto. Comunque la procura di Roma farà chiarezza. Eh sì, questo sì. Caro Oscar, intanto politicamente la questione rimane ben calda sui giornali. Effettivamente, secondo me, come dice Mario Lavia, lo scontro tra procure è la cosa più incredibile. Cioè, intanto è incredibile che un capitano dei Carabinieri sia accusato di una cosa così grave. È un ufficiale dell'arma, e quindi... E poi lo scontro tra procure. Ohimè, dire che sono sorpreso però significherebbe mentire dopo tanti anni. Questo è vero, cioè, per carità, torniamo, corsi e ricorsi storici di questo paese. Questo è il grave, perché rivediamo pezzi dello Stato contro altri pezzi dello Stato. Sì. Sono 50 anni che va avanti questa storia. Questo è il grave. Questo sì. Sospiro di sollievo da una parte, o sospiro di perplessità comunque motivato, perché comunque si veda, sapete, la mia impressione è molto semplice: siccome i fenomeni di corruzione da parte della politica, da parte anche però dei tanti vertici della pubblica amministrazione, a prescindere dalla politica per essere oggettivi, sono un fatto ohimè documentato in Italia, io credo che si diventa tutti più deboli se nelle indagini su casi così oltretutto rilevanti, di impatto nell'agenda politica, oltre che per la gravità dell'ammontare delle gare in sé, che sono comunque gare di miliardi, quelle gestite e bandite dalla Consip, e le indagini vanno a incappare contro errori di questo tipo, perché alla fine mettetevi e mettiamoci nei panni non di chi come noi ogni giorno segue i particolari delle indagini, delle inchieste, degli sviluppi eccetera eccetera, ma chi guarda da fuori con un occhio così giustamente disattento, pochi secondi per ogni edizione di TG a questa vicenda, gli arriva solo un messaggio: la lotta per dare interpretazioni contrapposte a qualcosa che comunque oggettivamente non funziona in un'indagine di questo tipo. L'effetto è che ciascuno la penserà come vuole, dirà che è una macchinazione o pro o contro a favore, e l'oggettività sparirà sempre di più. Questo è quello che mi preoccupa, perché diventiamo tutti più deboli, sia noi dell'informazione sia la politica. L'idea dello Stato non voglio spiegarvi, perché lo sapete meglio di me che fine fa. Quindi è un bilancio in cui ci si perde tutti. Sì. No, e poi quello che giustamente notavi tu, Oscar, e vorrei anche che Mario Lavia commentasse su questo, è che questi dubbi, e questi poi vedremo dove va l'inchiesta, ma sono dei colpi ferali nei confronti di altre inchieste che sono le inchieste contro la corruzione, che sono inchieste importanti che devono andare avanti. Cioè, a questo punto... dove c'è infatti un germe del dubbio così, esatto. Questo, ma questo infatti vorrà... la cosa grave è questa, cioè se io fossi un corruttore, se la giustizia funziona così, io sarei felice, torniamo veramente a molti anni fa, insomma, perché è chiaro che se c'è un polverone dove non si capisce chi sono i buoni e chi sono i cattivi, se i carabinieri sono dei felloni o invece se il Presidente del Consiglio è un ladro, cioè se c'è un clima di qualunquismo e di cinismo, le cose diceva Giannino, è evidente che i malfattori, quelli veri, possono tirare un sospiro di sollievo. Viceversa, se si avesse un minimo di certezza di come funziona la giustizia, dei risultati che la giustizia porta a casa, se ci fosse una sicurezza in questo senso, saremmo tutti più tranquilli e i ladri sarebbero più in difficoltà, questo è evidente. Sì. Allora, noi nel ringraziare Mario Lavia di Unità.tv, grazie davvero per essere stato con noi, ci ha chiarito alcune cose, andiamo grazie un attimo in pubblicità e poi, caro Oscar, ci sono tanti ascoltatori ovviamente anche sul tema delle tasse, sul tema... del DEF magari. Comunque io volevo dire a qualcuno, se per caso volete consegnarmi qualche stipendio come al direttore provinciale di Agentrate, venite grazie. Pure busta anonima bianca pure, senza scritto. Io lo stoporò delle verifiche, ma venite a consegnarmi gli stipendi. Ma come si fa ad accettare una cosa ma sì. Racconta al secolo XIX che questo sì. È stato un tentativo, come dire, all'inizio di era un di, uomo di fervida fantasia, devo dire, non direi vabbè, adesso vedremo poi in tribunale, ecco. Vedremo in tribunale. No, noi ma siamo, io dico perché sono tentato, noi siamo garantisti. Oscar, questi, cioè le querele qua partono. Non siamo garantisti. Esatto. Io sono garantista. Un direttore dell'agenzia delle entrate è sospeso in flagranza di consegna di presunte tangenti che sono sicuramente stipendi liberamente offerti generosamente dai contribuenti. Io sono garantista. Sono disposto a immaginare che non in questa terra dove il giudice ci penserà, ma nell'altra, le sette diverse graduazioni di intensità del calore dell'inferno dove lo brucerà saranno questa la giusta vendetta. Va bene, andiamo in pubblicità e poi rientriamo. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, vedi poi dopo l'arroganza degli juventini, caro Oscar, mi scrive mio fratello, cara giornata Giovanni, mi scrive muti. Capisci? Perché sono fatti così, c'hanno la tigna, ma no, c'hanno... Ma tuo dire che lui è rimasto muto di gioia. No, proprio era muti. Ah, cioè, era un'intimazione agli altri? Sì, no, a noi. Cioè, come noi. Dire, eppure zitti, cioè, e subire. Ha mutolito in ginocchio di fronte alla teofania, la geometrica potenza, queste cose qua. I ceci, queste cose. Muti. Ma vedi, io posso dirti abbiamo vinto e muti. Vedi, a proposito di religione, oggi c'è una notizia. C'è il ritorno. Che ho trovato sul Messaggero, che mi ha molto fatto riflettere. Un po' come quando all'inizio non volevo vedere Young Pope e poi invece mi ha affascinato, devo ammettere. Pensa che alla diocesi di Roma, la prima diocesi del mondo, di cui il vescovo è il Papa, come tutti sanno, allora Bergoglio aveva avuto l'idea un po' grillina, a dirti la verità, di dire proponente dal basso il nome del cardinale vicario, cioè del vice, che è colui che poi gestisce per conto del Papa e chi hanno proposto? La diocesi. E il grande popolo, la Chiesa e tutta la gerarchia, i laici, le suore, i diaconi, ma tutti si sono grattati la testa. Insomma, sono arrivati pochissimi nomi. Ci si aspettava questa grande partecipazione, perché il popolo ecclesiale romano ha ragionato: ma se poi decide lui come fa Grillo, ma perché cazzo dobbiamo partecipare? Allora capisci che c'è il pezzo sul Messaggero. O possiamo eleggere il Papa, no, capisci? Mi ha molto fatto riflettere. La Chiesa poi ha migliaia di anni, però ha distillato una saggezza, ma non le gerarchie, tutti, cioè sono arrivati pochi nomi, ma poi nell'inchiesta si capisce che il giornalista va lì e dice: ma voi perché avete fatto nome? E sorriso, nessuno critica, dice: ma tanto decide il Papa, capisci? La saggezza dei romani, va bene. Allora dai, ci sono tanti ascoltatori. Enrico da Modena, buongiorno. Niente. Intanto a Modena abbiamo 11 gradi. Ah, beh, sì, è vero che io do le temperature alle 6:30 del mattino, ma 11 gradi, va bene. Complimenti anche per Wondi. Grazie. Un caldo abbraccio. Grazie davvero. Volevo chiedere una cosa semplicistica, ma per tasse, ma io mi domando. Io al mattino quando vado, io sono pensionato dell'INPS di Modena, quando al mattino vado a fare spese in centro mi trovo dei mendicanti, dei ragazzi neri che chiedono l'elemosina, insomma, così. E poi vedo quando esco che hanno un telefonino e magari anche due. Io mi domando, vorrei chiedere a Giannino questa domanda: si può tassare almeno di 2 centesimi le schede telefoniche? In Italia ci sono 40 milioni di telefonini. Ma perché lei chiede a Oscar Giannino se vuole mettere una tassa? Ma no, pazzo, ma si vuole consegnare. Aspetta, sentiamo Enrico, perché non ho capito bene la finalità, ecco qual è, secondo per prendere soldi. No, io chiedo lo Stato, sì. Le regioni, cioè si potrebbe tassare, cioè mettere una tassa di 2 centesimi per ogni scheda telefonica? Ma si può mettere una tassa su tutto. Ma guardi, se lei immagina che io non fumo, aspetti, no, che le SIM e il traffico generato non sia tassato, si sbaglia. Cioè si può aggiungere tassato una tassa. Però il problema è che aggiungere imposte scegliendo su questo o quel bene di consumo, eccetera, eccetera, la classica attività discrezionale è comunque sbagliato in sé, ma comunque la vogliono assicurare, è tassato, e come lui vorrebbe due, cioè, vorrebbe due centesimi in più, ma perché gli stanno antipatici quelli che parlano al telefono? Io facevo per chiedere cassa. Però posso suggerire una cosa: scriva al ministro Padova, perché lì le idee su come aumentare l'entrata sono sempre ben accettate, come tagliare la spesa, che non sono molto ben accolte. Comunque invece, Enrico da Modena è bellissimo, perché Enrico ha chiesto a Oscar Giannino cosa pensa di mettere una nuova tassa. Beh, non mi sono stupito. No, ma è bello. Si preoccupa del bene pubblico. Siamo tutti rassegnati al fatto che tanto le spese si è non consegnato le tagliano. Come un agnello pasquale, oserei dire. Ma di sti tempi invece in realtà non si fa niente. Lo sappiamo, però, perché sai che il presidente Berlusconi, nella sua luminosa saggezza, ha deciso ora che c'è stato il closing del domani. Il closing, ecco, è per quello che sta facendo i sacrifici e non mangia gli agnellini, perché sta pregando anche lui San Zeno, dice: fammi fare il closing. Dai, c'è Riccardo da Treviso, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti e due. Beh, dopo il 3-0 di ieri sera, Enrico da Modena, sono rassegnato. Tra chi vuole alzare le tasse, il 3-0 sono rassegnato. L'intervento che volevo fare però era sul tema della magistratura, perché di fatto dopo Mani Pulite i politici hanno giocato a delegittimarsi reciprocamente. Vero. E hanno dato ai magistrati un potere che costituzionalmente non hanno. E noi cittadini siamo diventati delle pecorelle che basta un'indagine per far sì che un politico viene completamente screditato. Io credo che adesso sia il caso di ritornare un minimo allo Stato di diritto, per quanto le complessità della giustizia italiana un po' ti fanno passare la voglia di aspettare i tre gradi di giudizio, però se noi continuiamo sulla base di un'indagine a screditare il politico di turno non abbiamo speranze. Lo so Riccardo, però è anche vero che dall'altra parte la politica e la pubblica amministrazione sono pieni di gente che ne approfitta, quindi ci siamo infilati per questo meccanismo della delega, no? Di lasciare lo spazio, dovuto però alla crisi morale verticale della politica, non al fatto che ci fosse stata la presa del palazzo d'inverno da parte dei magistrati. Ecco, la crisi della politica dovuta alle ruberie ci ha prodotto questa situazione. Io penso che sia altrettanto sbagliato però pensare che il politico a quel punto è per così dire un santarello, perché i fatti mi dicono che non è così, quindi la vedo dura, perché stiamo nella notte dove non si capisce il gatto che acchiappa i topi qual è. Allora andiamo a Roma da Claudio, buongiorno. Buongiorno, no, la terza esternazione criticava le prime due, ma pure lui non è che è stato molto carino. E poi blocchiamo tutto perché sennò si politici. Io invece volevo fare un parallelo col capitano dei Carabinieri, che purtroppo dopo mesi di intercettazioni e trascrivere quello che si sente, quello che dicono, ha sbagliato un soggetto e lo mettiamo alla ghigliottina. Col fatto che molti magistrati hanno un super lavoro, no? Lo vediamo tutti, poi facciamo i paragoni tra Napoli e Roma. Io penso che il giornalista dell'Unità, quando fa le pulci a Napoli dicendo che Roma è perfetta e Napoli sono un gruppo di cretini, io dico che Woodcock nelle sue indagini, ho lavorato per molti anni a CSM, mi sono fatto un'analisi di tutti i magistrati che ho potuto conoscere, è uno dei migliori, va avanti nelle sue, perché è sì, uno non ha usato questi 54 termini. Della Costituzione non ha usato questi termini, la via, non ha detto cretini a nessuno, ha raccontato quello che è, cioè che c'è uno scontro tra procure. Guardi che a Roma, visto che è informato il procuratore di Roma, ora ha chiesto il PM che è in mano di rivedere tutti gli atti, visto che non si, evidentemente non si fidano più di quello che gli hanno passato da Napoli. Mi sembra una cosa abbastanza indice, quantomeno di, o no Claudio, di qualche problema. 7.000 copie, perché dell'Unità non si fida più nessuno, ma adesso ripeto, possiamo controllare tutto quello che volete, però per me Tiziano Renzi forse non ha parlato direttamente con Romeo, ma Bocchino, il braccio destro, il collaboratore stretto, si è parlato con lui. Ma questa sarà l'inchiesta a doverlo accettare. Infatti, Oscar, l'inchiesta non è che decade totalmente, cioè questo però forse è l'errore. Io capisco, vedi, Claudio, ci dividiamo, caro Claudio, in tribù e in tifosi. Perché da una parte io stesso diffido della politica, però io non posso che immaginare che se la linea di difesa del capitano, di un ufficiale dei Carabinieri, e che per la fretta della notte in cui doveva riaccorpare gli atti da inviare a Roma, visto che l'inchiesta originava da Napoli, un punto così centrale, no, non stiamo parlando di un particolare secondario, un punto così centrale dell'indagine e dell'intero castello d'accuse, cioè quello di chi sta dicendo dell'eventualità di un incontro del padre di Renzi, gli si cambia l'identità, eh? E beh, boh, mi è sfuggito nella fretta su un particolare così essenziale, e anche questo non è credibile, come non è credibile il fatto che a questo punto ci sia un errore voluto, e quindi non sappiamo a che cosa credere, caro Claudio. E quindi quando lei poi dice alla fine 2 più 2 fa 4, su quali elementi? Perché esatto. Cioè non si può dire 2 più 2 fa 4, non si può neanche dire che l'inchiesta è tutta finita perché che il capitano ha sbagliato, vedremo. La verità è esatto che ci si divide in tifo, cioè se uno dice una cosa sembra che sta per Renzi, se dice contro, in realtà il danno come dire comunque di credibilità delle istituzioni c'è, e questo per il futuro comunque è la cosa più grave, la cosa che del rimane. Quale poi ad approfittare di più i politici si illuderanno di essere loro, in realtà sono i ladri ad approfittare di più, però vabbè. C'è Daniele da Verbania, buongiorno Daniele. Carissimi, buongiorno. Eccoci. Io volevo fare una considerazione, sono sempre il tifoso juventino che chiama dopo le, dopo le vittorie favolose come quella di ieri sera. Cioè ci chiama allora... tutti i giorni, più o meno, negli ultimi anni, purtroppo. No, volevo fare solo due considerazioni. La prima è che per i gufi che dicono che la Juve vince solo in Italia... abbiamo dimostrato che la Juve vince anche vabbè, allora, vincerete la Champions League, però lo dica dopo la finale di Cardiff, lei. Io l'ho voluto dire prima. E questa era la prima. La seconda. Ecco, la seconda è che, e qua siamo nell'ambito di Radio 24, sì. È che il presidente del Napoli diceva che la Juve vince per il fatturato. E mi sembra che il Barcellona fatturi due volte la Juve, quindi decade anche questa. Vabbè, ma dai, ma quelle sono cose che si dicono. No, così. Ma no, ma non ha capito. No, però no, no, aspetta. Sì, sono cose che dicono i tifosi. Qui occorre un'interpretazione autentica napoletana. Quando parlava la Juve, il presidente Napoli diceva la Juve vince per il fatturato. Le fatture intendeva. Lei intendeva le streghe, capisce? Intendeva il fatto che voi avete questo potere di magia. Del resto a Torino è una delle capitali del triangolo della magia nera e magia bianca. Il Torino non c'entra niente come squadra, tutto fuori la Juventus, la magia, le fattucchiere, queste esatto, erano più, secondo me se ascoltiamo l'audio lo diamo in mano a un capitano dei Carabinieri, ha detto fattucchiere, non De Laurentiis, non fatture, fattucchiere, vedrà che è questo, pare interpretato, chiedo appello alla procura di Verbania. Per questo per esempio Buffon vince, Buffon giocava con Ramsette II ai tempi dell'antico Egitto, è una reincarnazione, non è vero, vi posso garantire, però è un portiere, mentre il Barcellona non aveva ieri un portiere. È stato decisivo per impedire l'1-1. Come no, come no, esatto, entrava quello 1-1 ed era un'altra partita, ma con i sei, con i ma Maria, stiamo alzando, no, questa è Manchester, questa è Manchester, a tutti i tifosi della Juve io ricordo sempre Manchester. Una va bene, parola. Giusto Manchester. Monito, giusto monito, quello è nella storia, memento mori, dai dai. E fine, oggi è proprio una puntata che è stata travolta dalla partita di ieri sera. Alino, Giannino, Giannino, Alino, Alino, Giannino, Giannino, Alino, Alino, Giannino, go!